Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Al compimento del 50° compleanno si verifica una sorta di scalino ripido verso l'invecchiamento, ma non disperate, la buona notizia è che l'invecchiamento non è inesorabile, si può contrastare e rallentare restando attivi e mantenendo un buon tono muscolare. Se ne è parlato alla conferenza internazionale della Società Mondiale di Sarcopenia a Roma. A Obiettivo Salute il professor Francesco Landi, primario di riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma. Durante l'Expo 2015 noi abbiamo osservato, attraverso la valutazione dei visitatori della fiera, come sostanzialmente al 50° anno di età noi cominciamo a declinare sia per quanto riguarda la forza muscolare che la funzione muscolare, e questo declino è lineare sia per gli uomini che per le donne e continua fino agli 80 anni. Questa è la cattiva notizia, ma la buona notizia è che noi possiamo contrastare questo declino con un adeguato esercizio fisico, quindi significa che non è un declino incontrovertibile, noi possiamo modificarlo, e una delle strategie per modificare tutto questo è proprio l'esercizio fisico. Noi abbiamo dimostrato come un ottantenne attivo, non solo che cammina ma che anche possibilmente vada in palestra e faccia degli esercizi anche un pochino con i pesi, ha la stessa massa muscolare, la stessa performance muscolare di un cinquantenne sedentario. E voi come state invecchiando? Potete scoprirlo con un test che vi abbiamo messo a disposizione sulle pagine del programma. Che aspettate? Donare la propria voce a chi l'ha persa è l'invito di Una parola per Nemo, una campagna del Centro Clinico Nemo finalizzata alla creazione di una banca della voce. A Obiettivo Salute il dottor Cristian Lunetta, neurologo responsabile area SLA del Centro Clinico Nemo. Abbiamo sempre più trovato delle persone che si sono scontrate con la possibilità di poter perdere la voce. Rappresenta una situazione assolutamente critica. L'idea di utilizzare degli strumenti elettronici sicuramente ha avvicinato il paziente ha una comunicazione quanto più efficace, ma lo porta a utilizzare spesso e volentieri delle voci sintetiche. Poter utilizzare una voce naturale che dia al paziente la sua, ritorni ad avere la sua dignità nel poter esprimersi con una voce che possa essere quanto più vicina al normale, rappresenta una sfida e una iniziativa che in qualche modo darà forza a chi tutti i giorni si scontrerà con questo problema. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto in diretta video, ci sono alcune novità nella terapia della caduta dei capelli e alcuni dati tra salute del microbioma e malattie del cuoio capelluto che voglio raccontarvi, quindi vi aspetto, un saluto da Nicoletta.